stavo dicendo, usano proprio che catena di fiumi, non si vuole lasciare una palla lì. Tutto il Messico, devono imbarcare quelli, eh. Andiamo a figare con il fiume interno, guarda, pare, figa, non fai nulla, lì la cosa è seria. E vabbè, però stai bagnato non gocciola, capito? No, da casa Ferrara, su Bieri, andiamo qui. Niente, quello è casa della grande scantina. Dove è il problema? Ma per l'industriale è stato... No, ma per la zona, no. Che industriale commerciale, diciamo. Sto fuori, ma fa cagare, commerciale questo? Commerciale, commerciale. Ora, ma... Sai che non c'è nessuno? Sono le 10, già. Mi si sente, poi a quella che c'è di arco là sotto. Non mi vedo che devi tirare, non c'è una famiglia, non lo spiego. Volvo Truck, giro le mani come te questo del macchiaretto. Tu che stai stampicendo? Storciato lo specchietto? Con la macchina. Ma dove vai? Prima di arrivare sul croccio a gusto. No, non è distante. Fortunato. E a Vicenti? Campo. Bene, non problemi, no? No, nessun problema, vabbè, siamo attaccati, fondo scala. Aspetta che vado sul chip e vediamo un po' se c'è qualcuno che fa un controllo, no? Claudio. Ehi. Allora, hanno dato un baracchino alla Paiette. In poche parole, quando schiaccio la porta si vuole andare al contrario. E il volume di ascolto è molto basso. Io penso che siano i finali partiti. Tu cosa ne pensi? Io trappuggio, lì bisogna fare tensioni. Lì sicuramente sono i finali partiti, perché quel difetto lì, i baracchini fanno quel difetto lì. Fortunato, bisogna vedere se ne vale la pena, si può mettere in gioco, si dà l'antonello, a pompone, e si fanno cambiare i finali. Che baracchino è? A Paiette, aspetta che ti ho detto, che Ma te c'è il coronavirus, va. Che aspetta, un bel casino, cosa stavo dicendo, ho capito qual è la Fayette, quella da, diciamo, da già, sì, e lì bisogna vedere, fortuna, se ne vale la pena, bisogna sentire Antonello. Io se sento Antonello, se si ricorda, le dico che che finale monta, secondo che finale monta, se costano poco ci sono qua sassari, allora va bene. Ehi, intanto mi serve la sigla, capito, qui per cambiare il doppio strano, e poi più pratico come fanno tutti. Allora se vuoi aprirlo, mica ce l'hai davanti, con tutto lì coperto in fondo, dove c'è l'aggancio del PL, lì davanti, ci sono due piattine, quelli sono i finali. Ti prendi la sigla e li fai controllare da Pierfranco. Dai, allora faccio così, però non ti arrabbiare, cazzo, che sei un istruttore. Arrabbiare? Oh, questo microfono che mi fate sempre alterato, se mi ricordo 30, forse, avevo 20, in maggio 61 quasi, avevo avuto 25-26 anni, è venuto a trovarmi, ha fatto la porta, buongiorno, sto cercando quello dello straniero, questo sono io, tu sei, e aspettato la voce, ma arriva da 80 anni. Dai, crack, mi chiudo, mi sono entrato 5 minuti, ero insieme a Penna Bianca, a quelli di camionista. Andiamo tra, qui già lo so dove trovarti, dai, ok, faccio una grande. Ciao Fortunato, ti ha cambiato alle velocimine, falle dare un'occhiata a Pierfranco, già sarò da mettere le mani. E poi i finali già li trovi, saranno finali comuni, dai, tipo quelli del Midland, quelli lì. Ciao, un abbraccio anche a te e buon fine giornata, ciao. non ascolto. Chi c'è qua? Ciao Natalino, buonasera, Gianni da questa parte. Ciao Gianni, ciao, buonasera, ben sentito. Buonasera anche a te, buonasera anche a te. E allora? Allora, 60 minuti già. È un quarto d'ora. Ma vai truppo, ero qui all'ascolto, vero? Sì, ancora mi sciumo tu e io mi sembra, bu. Scusa, ecco, mi stavo facendo, mi era caduta la sigaretta alla portacene e non riuscivo a trovarla, ragazzi. E quindi c'è qualcun altro qua sul 10, avanti, niente, ancora il chizzo, sono le 6, oia. Ho riattaccato l'altra radiolina. Si sente la differenza, Natalia? Bella come radio, io purtroppo due mi sono potuto tracciare. Ehi, no, qual è? I giorni scorsi stavo usando quella mia vecchia radio, quella anni 70 recuperata da un camper, adesso sto usando quella che mi ha lasciato Marco Condor, il Super Jupix 2000. Quello lì ce l'ha. Ce l'ho qua incomodato, non so cosa attendi. Ma era qua poco fa che stavamo programmando roba con Marco. No, vabbè, questa radio me l'ha data mesi fa, ce l'aveva dentro l'armadio, ha detto, visto che non la tieni spenta, la attacchiamo qua così la facciamo girare. C'è un break, ho sentito un break registrato, fallo venire avanti già. Mi sembra Nicola, ma è lontanissimo, avanti. Ciao Nicola, buonasera, sei molto lontano, dove ti trovi? Sì, la radio è bassa, hai capito, Nico? Scappa, non c'è problema, va. Bisogna faccia bel tempo, perché sennò è un macello. Svito quella situazione e poi la mettiamo nella base magnetica. Io che da già sono qua con Gianni, ero all'ascolto io. Nicola, quell'antenna lì l'hai già provata e sperimentata altre volte. Qua praticamente mi arrivi Santiago 7. Non risuona quell'antenna su quell'apparecchio sicuramente. Forse ha staccato, vabbè. E comunque è già l'ennesima volta che prova quell'antenna, ma non risuona con quell'apparecchio, mentre qua mettendo l'altro antennino, quello optional, quello più lungo, l'apparato esce meglio. Magari non risuona bene quell'antenna, è per quello. Magari è un classico stilo, senza nessuna carica, senza niente, cioè è un banalissimo stilo, quindi sicuramente non rende come gli altri giustamente costruiti con quel tipo di specifiche, dai. Sì, ho capito. Boh, vabbè, vediamo un po' cosa combina. L'ideale è mettersi l'antenna al balcone, anche di quelle di macchina, secondo me, così almeno sta più tranquillo. Sì, infatti. Cioè, quando è? La settimana scorsa, mi pare. Adesso mi sfugge il nominativo, da Sassari 2, mi ha detto che stavo uscendo praticamente con un antennino veicolare da 70 cm, fatti un gonto. Io mia, lo so cosa facevo con la PL800, quella che devo dare a Nicola. La attaccavo con la base magnetica al frigorifero, sopra il frigorifero ce l'avevo. Beh, allora sai che ci vuole che non attesi. Con la PLC800 della macchina, la PLC800 era. E ce l'ho ancora. Infatti devo smontare la base dell'antenna della PLC800 che ce l'ho attaccata sul tetto della macchina. La metto sulla base magnetica e poi la do a Nicola. Capito? Io prima di mettere la boomerang stavo usando un'antenna di macchina o di camion, insomma, un'antenna classica, adesso non so dirti che marca sia, 1,75 m di antenna, credo che sia vetroresina col mollone sotto. E niente, insomma, con quella lì e con il vecchio apparato, dai, mi facevo sentire un po' da tutti, dai. Io infatti uscivo con quell'antenna lì, con quella della macchina. Ehi, infatti ho detto, cioè, se, a Nicola, se ne avesse bisogno, cioè una volta che riesce più o meno a sistemarsi, cioè se serve l'antenna non ci sono problemi. Ma lui la vuole con la base magnetica per metterla in macchina, lui se la vuole mettere in macchina. Kappa. Mi stava raccontando tempo fa che praticamente lui ha, scusa un attimo, scusa, stavo dicendo che lui tempo fa mi aveva detto che gli avevano, non mi ricordo se gliel'avevano regalato, insomma, comunque lui ha un vecchio Lafayette, un 40 canari, a cui manca praticamente il microfono e lo spinottino del cavetto di alimentazione. A questo punto gli ho detto, perché non fai una cosa, cerchi ti buschi un microfono anche tipo Midland che costa 12 euro 15 euro, e un cavettino lo si può fare anche al volo, e ti fai una piccola stazione fissa. Ah, l'idea sarebbe quella forse. Non penso, cioè, anche se è vecchio, sempre un apparecchio omologato, sicuramente sarà un 4 watt, non mi ha detto il modello della Fayette, comunque, certo, un microfono si trova anche su eBay, 12 euro, quindi, voglio dire, ma già si busca anche qua a Sassari, non è quello il problema. Così almeno, come stazione fissa, magari si mette l'antennino fuori dalla finestra, la macchina, e si usa praticamente la Fayette. Ma deve stare attento, perché quelle omologazioni non valgono più. A me me ne hanno sempre tratto uno così, perché non era marcato CE, capito? E io me l'ho dovuto ricomprare, questo è nuovo, è un Polvar, è marcato CE, capito? Perché se no a me me l'hanno sequestrato e mi hanno messo anche la multa, perché non era più valida quell'omologazione, capito? Ok, ma se te lo posso chiedere, e se chiaramente mi puoi rispondere, ma come mai, stavi disturbando qualcuno o tra virgolette o ti hanno segnalato? Disturbavo le televisioni, anche con l'omologato, era una scatoletta di fiammiferi piccola quanto è questo, però non era marcato CE, io ero convinto di essere in regola, perché era omologato, c'era la targhetta dietro di omologazione, però questa omologazione non va di più. Era uscita la legge, io non lo sapevo e purtroppo ci ho rimesso l'apparato, un rosmetro, tutto quello che era attaccato all'antenna me l'hanno portato via, tranquillo. Anche l'alimentatore volevano, solo che c'è marcato CE e non me l'hanno potuto toccare. Vedi Macchini, ascolta, che antenna c'hai tu? Montata? Come quella di Marco Conte, uguale. Kappa, ho capito, forse me l'avevi già accennato ma me l'ero dimenticato. Bene meda, e vabbè, ci sono un sacco di antenne, cazzo, antenne, non si chiamano antenne di TV, cazzo, che so, tutti frasichi, quindi. Sì, infatti hanno le antenne marce, non fanno massa, tutti i sublimanti di renta, a 30, più l'amplificatore, magari non fanno massa e giustamente tutto quello che è nell'essere si assorbono. Eia, vabbè. Cosa stavo dicendo? Volevo dire un'altra cosa. Adesso mi è passato un attimino di mente. L'antenna che mi ha detto, quella che c'ha Marcolino. Stavo per comprarla io quest'estate, poi ho detto ho preferito di no. Intanto il suo direttore PC mi ha fatto pagare 90 euro. L'Energy, si chiama Energy quest'antenna. Ehi, no, vabbè, io l'avevo vista su internet, ci avevo fatto un mezzo pensierino, ho detto, ma la prendo, e poi... poi alla fine ho deciso che, insomma, che mi fa bene quella che c'ho, dai. Che va bene, se ne divisa. Tanto se ti fai sentire, no, che sia abbastanza bene. Ha voglia, considerando l'antenna che ho, quindi va molto bene, cioè ce n'è, poi vabbè, più avanti vediamo, non la giudi brezza, dai. Sì, infatti, è da me che viene male, se no mi avrei messo l'antenna uguale a quella di Gianni, quella già è bella, non ha radiali, non ha un cavolo, ed è leggerissima, lui, e poi già tarata, dunque in terapia si è modulata. Io avevo provato, Daniele mi aveva fatto provare la Ringo, ma è un'antenna già che nasceva con i suoi problemi, la nasceva umidità. Sì, quella è un'antenna che non vale a nulla, ce l'aveva un amico mio, una volta gliel'ho riparata e da poi deve essere che è andata male e non c'è entrato. Cosa vuoi ti dica? C'è problemi grossi, non riuscivano manco a pararla, dice Cerzi. Sì, sì, l'ho provata per un po', poi l'ho smontata e gliel'ho restituita, perché proprio non andava, dai. Infatti, chissà di Gianni è per dare sera, tutta in corso e non va là. Vediamo se Nicola è rientrato. Nicola, ci sei? Sì, doveva tornare indietro a casa sua, cambiare l'antenna e poi riuscire, adesso un quarto d'ora. Andavè. Troia. C'è qualcuno in ascolto sul 10 avanti? Ancora niente. Tutto tace. Speriamo che cari questa maestrale, ragazzi, non se ne può più. Stamattina c'era freddo veramente, quando sono uscito a portare il cane, uia. Sì, adesso, ma il prossimo giorno dovrebbe migliorare, vediamo un po', cioè, a vedere. Infatti la temperatura è scesa di brutto, il vento si dovrebbe calare già da stanotte, quindi manco male, dai. Sì, dai, è in fase calante il vento, dai. Zugai. Vediamo se c'è doppio rum all'ascolto. Attenzione Gianni, doppio rum, ci sei? E adesso tra un po' già entreranno tutto. Però io mi sto un po' all'ascolto qua che sto facendo cosa. Al limite già entro più tardi. Ciao già, saluta a Nicola. KK, anche io finisco di fare una cosa al computer. Rimaniamo in ascolto, dai, a dopo. Avanti. Chi è? Mamma Natale. Ciao Claudio, buonasera. Ancora per qualche giorno. E allora qua, cosa mi racconti? Nulla, ho fatto la sciacquatura per la schiena, diciamo, veramente messo male. Poi ci mesce un attimo, ho aperto la finestra e sta piovendo. È abbastanza forte anche qua. Ehi, andai torra. Speriamo che. Ma forse ce n'è ancora per un paio di giorni, dai. Non so, veramente. È un po' così il tempo, anche perché c'è freddo. Siamo affacciati, c'è freddo rispetto agli altri giorni. Maestrale. Ascolta, senti un po', mi dici più o meno, vabbè, forse me l'hai detto anche l'altro giorno, come ti stavo arrivando il segnale. Adesso vabbè, oggi sto scendendo con la radio di Marcolino, non con quella mia. Con la radio di Marcolino? Il segnale è sempre lo stesso, 9.10 abbondante, radio 5. Ok, grazie. No, vabbè, i giorni scorsi stavo utilizzando il mio vecchio 40 canali, quello che tu sai, ti avevo mandato le foto, eh. giusto per farlo girare un attimino. E stasera ho riattaccato la regina di Marco. Non vuoi scaricare ciò? C'è un scarico elettrostatico, come sta piovendo, il tempo che ha fatto, il vento, adesso Maria Gara che balle piene ne ho. Anche qua ogni tanto, poi vabbè, a parte Sirio quando bassa, che anche lì scarica a go-go. Quindi anche qui un po' di scarichette già le manda, dai. Vai, cuo male. Oi, cuo male. C'è il break di Nicola, dai, io mi allontano un po' dalla radio, sono entrato un attimo a salutarvi, al limite ci sentiamo più tardi, perché sono rientrato poco fa dal QRL, adesso mi metto un po' in sesto, dai. C'è il break di Nicola, avanti Nicola, ciao, buonasera, ti lascio in compagnia di Gianni e c'è anche Luca. A te Nicola, buonasera, dopo. Sì, buonasera. Trovo nel terrazzo condominiale interrogativo, mi faccio un piccolo controllo. Ehi, cazzo, ma sta piovendo, cosa c'è? L'ombrello. Santiago Nova Radio 5, arrivi qua Nicola, alla grande. Dai, riprendi Gianni. KK, anche qua 9 più Radio 5, prima era Macio Fecca il segnale, dai. Ciao a tutti, vado a fare, ciao. Comunque siete a fare. Ciao l'ombrello. Adesso l'ombrello è chiuso, dai. Ok Nico, mi è sembrato sentire Giulio, avanti Giulio. Boh, vabbè, o magari me ne so niente. Ok, adesso va decisamente meglio Nico, il segnale. Mi sembra che c'era anche Luca, avanti Luca, buonasera. Stiamo giocando a nascondino. Eh sì, è entrato. Poi mi è sembrato di sentire. Mi è sembrato di sentire anche Giulio, non lo so, comunque siamo qua, dai. Zona Latte Dolce, credo. E Giulio? Zona dei Punti. Ok. Comunque io dal terrazzo ho detto che non c'è nulla, io qui praticamente vedo una buona parte della città, quindi dovrei farmi sentire anche da questa parte. Certo, però sono spariti tutti. Attenzione Luca. Vabbè, forse si è allontanato un attimo. Niente, dobbiamo per avere il responso dobbiamo aspettare che entrino gli altri, quindi. Io rimango qua, no, c'è un po' di ventitero, ma mi sono prendito qua. Da dove sono io vedo. Bene. Allora, io stavo scrivendo una cosa, sì, mi sembra di aver scritto giusto, e niente, vediamo un po' se entra qualcun altro, aspettiamo. Va bene, faccio una chiamata anch'io, sarà di tutti, un ascolto avanti, il silenzio tutto calma. Ehi, c'era Natalino però, stavo facendo roba, quindi dice che entrava più tardi. Ok, Luca è rientrato, emergenza pellet è terminata, ok. Lo senti Nicola, Lu? Basso. Luca, Nicola, ti ascolto, basso, Nico. Già, negativo. Questa volta non ti ha copiato, eh. Ho capito, solo condominiale, basta. Nicola ti stava chiedendo più o meno a grandi linee qui, qual è la posizione del tuo QTH? Che dolce, vicino Valsalda. Allora, per Nicola, QTH di Luca, in, approssimativamente zona laterale o c'è cioè Barsana? Io spegnete tutto il baracchino, forza. È iniziata la piovere, qua. Ciao Marco. Ciao a tutti. Ciao Marco, buonasera. Ehi Nico, poi, boh, troppa umidità, cioè non so se ti convenga rimanere sopra. Comunque c'è da dire anche che Nicola è in antennino, ma Luca pure ha un'antenna un po' di fortuna, perciò non si sentono, non riescono a sentirsi bene. Ma guarda, io appunto lo penso benissimo, da 1 a 10 lo penso 7 e mezzo, perché è una radio, una modulazione forte, diciamo, riesce a far riguardi bene per quello. Tu c'hai una modulazione più omologata, un po' più contenuta, ecco. Quindi segnale basso, modulazione più contenuta, ti ascolta meno bene, cap. Guarda, non vi mettete a ridere, sono tutto il resto con un trello aperto. E sto riparando più che altro la radio, non io, no? Un minuto di pausa per me. Io già, dai, io stavo guardando qua internet. Va bene, avevo sentito anche Giulio che ha salutato, Claudio se si è all'ascolto, ciao. Nattarino stava facendo roba, così è. Si sente il crepitio di elettricità statica qua, tipico di come quando inizia a piovigginare. Ma no, sono per i fulmini, ah boh, io li temo i fulmini, però sembra che sia pioggia, cioè non è temporale da fulmini. Brutto è quando sono temporali da fulmini che scoccano uno dopo l'altro. Ho dovuto mettere il noise blanker perché è partito proprio il rumoraccio della pioggia. Va bene, dai. Sei presto ancora, no, non tanto presto, le 6:26, più o meno l'ora giusta. Io adesso mi mangio qualcosa, come sempre, poi se ne voglia entro. Ok Nico, conviene tentare più tardi. Sì, io dicevo, io adesso mi mangio qualcosa, ma ritento più tardi. Poi se piove forte, comunque stacco anche l'antenna, per sicurezza. Era stata rapinata, però è morta per altre cause, per anzianità e normali altre cause, motivi di salute dovute forse anche alla vita all'aperto. Sì, era morta comunque. Sì, ma si era parlato forse di un anello d'oro, di una collana d'oro, una catenina. È un balordo, le ha dato una mazzata in testa mentre dormiva, una bella mazzata. E l'aveva derubata, ovviamente l'hanno preso subito. Poi si era ripresa, però poi la salute è peggiorata. Secondo me anche per la vita all'aria aperta, sai, polmoniti, roba del genere. È quella, ma tu sai chi è quella e cosa aveva fatto in passato? Sì, lei era praticamente l'amante del capo della banda che aveva sequestrato l'allora imprenditore Pupo Troffa. Credo che si sia fatta una 20 di anni di carcere e che nonostante lei abbia detto che non sapeva nulla, non c'entrava nulla, probabilmente invece le prove erano schiaccianti e l'hanno condannata. Prova, si sa ancora. non so fino a che punto è copiato. Lei era l'amante del capo banda che aveva sequestrato l'allora imprenditore Pupo Troffa. Anche se lei diceva di non entrarci nulla, ne sapeva naturalmente due strisce, ne sapeva abbastanza e forse le prove erano schiaccianti e si è fatta 20 anni in galera, credo. Esatto, era uno spirito libero e siccome lei lo diceva e siccome si è fatta galera, dice che questi ricoveri sono come il carcere, tutto orari, a quell'ora si mangia, a quell'ora si va a dormire, a quell'ora ci si alza, capito? È come il carcere, siccome lei l'aveva passato preferiva vivere in piena libertà. Meno male che non le hanno sfondato il cranio anche quella volta. Potevano anche romperle la testa e ammazzarla così. Insomma, è pericoloso vivere in quel modo. Va bene. Dicevo, Nicola, che se io mi scaldo qualcosa, mi mangio qualcosa e ritento più tardi, ok? Sì, sì, va bene, anche perché io scendo, perché sta solo in città. Insomma, non è che veramente posso stare per un tema, anche perché si va sicuramente, oppure non lo prendo con la giornata, dato... Eia, nel caso a più tardi, ok? Ci sentiamo. Poi quando migliora il tempo, se vuoi fare prove di antenna, piazzare segna, voglia, antenne veicolari lunghe. Ok, ne riparleremo. Ciao Nico, ciao. Ciao Marco. Attenzione, binario 10, c'è qualcuno, cambio. Canale 10, sì. Attenzione. Ciao Gianni, buonasera. Ui, tu prof, beh, come andiamo? Poco fa ho acceso, c'era qualcuno, poi si sono assentati un po' tutti, dai. E chi c'era? Boh, ho beccato Claudio, poi c'era Luca, Nicola, Marco credo che stia pranzando, e poi boh, non mi ricordo, dai. Vabbè, io forse sono andato troppo tardi, dai, stavo guardando il cellulare, così stavo un po' sfogliando su internet. È tanto per passare il tempo, perché stare in casa è una baranoia. Concordo, concordo. magari sono in ascolto e stanno facendo altro, boh. Vabbè, se vogliono entrare siamo qua, sono... Ben accetti, non c'è problema. Questo vento sta scussurando un po' di antenne, dai, in questi giorni. Davvero? Chi l'ha buttata giù? No, l'ho buttato giù, scussurando, nel senso che le sta facendo muovere, dai, cioè perlomeno la mia, ho visto, sono uscito un paio di volte e ho visto che si muove parecchio. Comunque, l'importante è che si muova e che non si spezzi. quello lì, sì. È senza ombra di dubbio. L'antenna si deve muovere quando c'è vento, se non si muove si spezza, se è rigida si spezza. Già è abbastanza elastica, dai, non è questa grande struttura. La mia è come una canna da pesca, la mia flette da una parte all'altra, che è dei 160 km orari. E anche la boomerang già ho visto che si flette parecchio, poi vabbè, anche un po' di tubo sotto alla base, quindi è elastica, dai, si muove il tanto che basta. Quanto è alta la boomerang che c'è tu? Quella che c'è è da 3 metri esattamente. È una boomerang normale, non è la mini boomerang. No, è quella da 3, la mini boomerang che credo che sia 1,5 metri se non sbaglio. Io ho avuto quella. Però a regolare le stazionali era un casino, no? Minimo scendeva, massimo scendeva una 2. Guarda, io ho fatto delle prove. Praticamente sotto l'1,2, quasi 1,5, 1,2 non riesco a scendere. 1 e 1,2 è già buono, 1,2 è buono, è buono. Però la mia da 2 non scendeva, anche forse la posizione in cui la messa l'avevo messa sopra il ferro per stendere, hai capito? Eia, eia. No, qua mi ricordo che avevo ho fatto delle prove, ho cercato di regolare le stazionarie inclinando il radiale, cercando di trovare la posizione migliore, ma ho visto che praticamente variava pochissimo, ho trovato l'angolazione giusta a 45 gradi e così l'ho lasciata. Se tocco lo stilo del radiale, se lo appena appena lo tiro fuori, cazzo, mi sa come le stazionare a 1000. Sì, è così, c'è quello stub che vuole regolato, però non regola più di tanto. Dovrebbe avere campo libero per regolarlo proprio come vuoi tu. Vabbè, tu ce l'hai sul tetto, io ce l'avevo sul terrazzo, è diverso. No, infatti lo stub, come lo chiami tu, praticamente la regolazione dove c'è quel piccolo stile, praticamente è tutta a fine corsa, è tutta dentro, perché se lo muovo, cazzo, mi sa come una palla. Cazzo. E vabbè, su tutti i canali come si, sugli altri canali, non solo su questo, ma solitamente si regola sull'1, sul 20 e sul 40. Sul 40. Guarda, io generalmente, vabbè, lo strumento con lo ZG qua, il rosmetro, mi metto sul canale 20, aggiusto il rosmetro e poi guardo la misura. Chiaramente se vado sul canale 1 le stazionarie salgono, se invece salgo di canale si abbassano. Ah, ho capito, no, dai. E vabbè, tanto noi stiamo sempre qua sul 10, cosa di naffusa. Sì, ma anche Marco Nero mi ha confermato che è proprio una caratteristica di questa antenna, forse dovuta anche alla sua lunghezza praticamente, che insomma ha questa caratteristica qua. Però ho visto, cioè qua sul 10 sono quasi a 1,2. Già vanno bene 1,2, a voglia. Sì, vanno benissimo, poi chiaramente più salgo il canale più si abbassano, dai. Cioè se vado tipo dal 20 in poi scendono praticamente a 1. Vabbè, interessante, poi già esci bene abbastanza, vabbè, forse siamo vicini, magari lontananza meno, ma io ti sento molto bene. C'era Natalino, c'era anche Natalino poco fa, ma stava facendo roba al computer, dice che entrava più tardi, boh, vediamo un po'. Vabbè, siamo qua, è Lupo Grigio che si raffatica. No, era sul terrazzo con l'ombrello in mano e l'apparato, quindi no, non era, si stava più avvicinando e quindi per il momento ha deciso di spegnere, non so se riaccende dopo. Una scena, avrei voluto fotografare. Paradossalmente dice che l'ombrello serviva più per l'apparato che per lui. È un leone, sta sempre combattendo, fa tanta strada per riuscire più forte, e si fa la passeggiatina, eccetera eccetera. No, lui si dovrebbe decidere a fare una cosa, prendersene uno, metterselo in macchina, se ne sta dentro la macchina almeno sta al caldo, al cavolo, invece che starsi in giro così. Ma a me mi ha detto, se non sbaglio, che c'aveva o un Intec o un vecchio Lafayette, adesso non mi ricordo, che praticamente a cui mancava il microfono e il cavettino d'alimentazione dietro. A questo punto con due spiccioli compri un microfono, ti metti un'antenna al balcone e sei andendi. Infatti. No, c'è un Intec, sì, ho capito. Me l'aveva detto anche a me. Mi ha detto che l'hanno regalato, però non c'aveva le richieste, bisogna vedere sempre se funziona. Se no magari compri la roba e davvero funziona. Vabbè, già per provarlo non costa nulla. Si attacca un microfono per prova e lo si fa andare, non è che sia un problema. Poi vabbè, per trovare la polarità basta scoperchiarlo, si vede subito la polarità degli attacchi allo spinotto, positivo o negativo, cioè è un attimo, cioè proprio veramente ci vuole pochissimo. Ma vendono il caffetto già pronto per vinte che lo vendono. Ma la GBC lo compra. C'è il caffetto che entra spinotto da dietro. E basta, li può mettere l'attacco a banana, li può mettere l'attacco che vuole lui, accende sigari. Ehi, ehi. Vabbè. Così almeno in casa si usa quello e poi in esterna usa il portatile. Lui ha esattamente l'FM500S che ho avuto io anche, e me l'avevano rubato dalla macchina, mi hanno spaccato il ventre e mi hanno rubato l'apparato. Ehi, ehi. Com'è la sigla? FM500S? Appa. E adesso... aspetta che sono su internet, che voglio vedere com'è esteticamente, dai. Ah, è già la Landini. Ah, è in Lucrezia. Doppio rum, caro. Come hai visto, è andato a piegarti a Pisa, ciao bello. Ma cocco, come lo fai a giocare a cazzo? Vai, doppio rum, caro. Ciao a tutti, comunque dai, sono in ascolto, causa strafogazio in atto. Vai Gianni. Vai piano. Ciao Luca, ciao anche a te, dai. Oh, Lubrofe, era un bel apparato quello, io ce l'avevo in macchina, andava molto bene. Oltretutto si poteva aumentare di canali, forzando la manopola dei canali, si spaccava una linguetta che lo riteneva l'omologazione e andava oltre i canali. KK, sì, ho messo praticamente su Google immagini Intec FM500S, sì, è carino, caspita, cioè, non costa niente agganciarci un microfono e provare ad accenderlo, è una bella radiolina, dai. Sì, è carino, io ce l'avevo in macchina, ti ripeto che andava molto bene, facevo anche 10. Una volta con lui ho fatto dal quadrato, no veramente non proprio dal quadrato, dal parcheggio delle querce sono arrivato in Inghilterra con la propagazione. Figurati tu, quindi, allora qua c'è anche addirittura su internet il manuale. Dice manuale d'uso FM500S omologato 5 watt. Allora era omologato, adesso non più, perché non è c'è. I soliti intrallazzi. Avanti Antalì. Mi sa che l'unico che ce l'ha, siamo gli unici anzi che ce l'hanno omologato, siamo io e Marco Condo. Ma dovrebbe essere anche quella che c'è io omologata, boh, adesso non ne voglio guardare dietro, boh. Guarda che ce l'ho anche io omologato, Lattalini, ne ho due omologati, anzi tre, addirittura, marchiati c'è. Allora, tu sì che c'hai i soldi e te lo puoi permettere. Ma cosa c'entra? Ce l'avevo da prima e ho avuto la fortuna che quando li ho comprati erano marchiati c'è. Tipo il Midland, Plus, poi c'ho il Cobra che ho omologato, e poi c'ho il Midland Alan 48, sempre tutti e tre omologati. Ma forse io me lo sono dovuto comprare appositamente, se no non potevo usare. Vabbè, lo so. Io addirittura ce l'ho anche in concessione, quindi con l'omologato. Sì, che poi vanno bene, se ti fili vanno bene anche quelli omologati, non è che siano i diversi dall'asse, no? Sì, vanno bene, ma se si fermano non vanno più bene. Dove? Quelli omologati non vanno bene se ti fermano. Ti riusi qui tre, già mi sono marcato CE e ti mettono la multa. E se sei recidivo e sei dentro euro la multa, non so così ti convengo. No, ma io sto parlando di quelli omologati, ho detto, quelli omologati non è che siano molto diversi dagli altri, vanno bene lo stesso. Sì, vanno bene. Omologati, insomma, non è che puoi usare altri apparati che non sono marcati CE, perché se no lo fai cosa ti dà. L'hanno fatto a me, quindi lo so. E io ho dovuto comprare questo proprio per quel motivo, se no la concessione come che non ce l'hai. Mi illumini, questa stavo proprio pensando a Giuseppe, mi ciao Giuseppe, buonasera, e tu non si è più fatto sentire. Buonasera a tutti. Allora, i Midland ce li ho anch'io omologati, il 0648 marcato CE e non si scappa. Marcato CE va bene, se non muta. A chiamare mi ha rifatto di Sartoria, ciao Giuseppe. Ciao Natali, sì, anche quello che ho a bordo del camper, anche quello è marcato CE. Marcato CE va bene, no. Io ho anche la dichiarazione di conformità, o se mi vengono a controllare, no? E così almeno sono tranquillo. Ciao Giuseppe, buonasera, Gianni da questa parte. Ciao Gianni, ben sentito. Ascolta Giuseppe, un controllino veloce, dimmi un po' come ti sta arrivando. Allora, radio 5 Santiago 7. KK, si può più o meno che zona ti trovi? Zona bassa di 2. KK, ok, ci siamo sentiti forse qualche giorno fa. Bene, grazie mille. Anche tu qua arrivi bene, radio chiare, Santiago 9, dai. KK, vai già. Ehi, a Giuseppe, cos'è combinato? Sempre intrufolando stai con questa antenna, cosa hai messo adesso? No, niente, è sempre lì. È sempre lì, stavo controllando le stazionarie. E come si è messo? Non bene. E fai passaggi curti, già lo scaldo. Aspetta un attimino che faccio il controllo, riprendete voi la. Scappa, riprendi la tagliata. Scappa, sarà affogato io anch'io. Affogati, avanti Gianni, noi ci siamo noi che non mangiamo. Eia, no, adesso, vabbè, non stavo guardando l'apparato dietro, sì, è marcato CE questo qua, è marcato CE e comunque Marcolino forse ne sa più di me, adesso aspettiamo magari che finisce di, anche lui di straffogarsi, e niente, dai. Dimmi tutto, tra un boccone e l'altro. Ehi, no, stavo guardando il Super Jopix per vedere se aveva il bollino CEO, visto che ce l'ha dietro bianco. Sì, sì, non solo, ma nasce omologato quello. Quello nasce omologato. 4 watt M, credo 12 di picco SSB, 40 canali, poi, vabbè, si può disomologare, riomologare, capito? Vabbè, comunque, dai, ho guardato e ho trovato la targhetta bianca, dai, comunque, va bene così, avanti già. Come sarebbe a dire a Marco, si può disomologare e omologare, cosa c'ha? Un tasto che lo fa andare come omologato e poi muovi il tasto e va con il truccato, diciamo così. Allora, per i canali ha 3 pirolini verticali affiancati. Un cappuccetto copre tra l'1 e il 2, faccio un esempio, no? Con le pincette il cappuccetto lo mette tra il 2 e il 3 e diventa 240 canali. Ma nessuno ti impedisce anche di rimetterlo 40 canali, di riportare, che ne so, il trimmer della M come da omologato, rimettere la potenza nel caso che sia stata aumentata, rimetterla 4 watt picco come da di fabbrica, capito? Non è una cosa irreversibile, ecco, lì c'è il cappuccetto, aumenta i canali o li rimetti, molto molto pratico, poi volendo per i più maliziosi ci puoi mettere un interruttore magnetico in modo da attivare e disattivare i 240, per dire. Capito. C'è una cosa interna, non è esterna, non è un selettore esterno, è una cosa sullo stampato. Dai, riprendete, ciao. Ciao. Quello va bene per me nei camper, allora. Appunto, se ti fermo non passi la calamita, vu? Infatti, perché io sto usando il 48 per uno che ti fa. Vabbè, comunque nel camper ho usato il verba, è difficile. Io ho avuto tanti anni la macchina con l'antenna, non mi hanno... Ah, una volta mi hanno fermato andando al quadrato e dovevo trovare gente e mi hanno fermato quando c'era l'anticrimine e mi hanno controllato anche la concessione. Poi mi hanno chiesto come bisognava fare perché questo poliziotto era appassionato e mi ha chiesto un po' come doveva fare, gliel'ho spiegato. Ha detto guardi, non c'è problema, se vuole lasci stare, non c'è problema, già mi arrangio io, già adesso farò la domanda anch'io perché mi piace. Ma ce n'è gente, ho detto sì. E mi hanno fatto andare via, non ha detto che erano dell'anticrimine, stavano controllando per quello, di scusare, ho detto no, ma non c'è problema, il vostro lavoro state facendo. Io nei camper, no, non mi hanno mai fermato, ma anche quest'estate ho fatto un bel giro su in Alta Italia e anche per pagare. Ma infatti è interessante che non disturbi magari qualche pattuglia che sta, lo sai che cosa ha detto l'amico della stradale? Che quando lui era Alessandria, che era in pattuglia, ci avevano anche il baracchino della 27 per ascoltare, lo sai? E ascoltavano quelli che non erano omologati, li fermavano, quelli tipo camera eco, roba così, io già nei camionisti, quelli li fermavano tutti, sequestravano a nastro. No, vabbè, il mio camera eco non ne ha, però è... va che è una meraviglia. Deve andare, sennò no, cosa vedeva fa? Dove l'ha messa l'antenna Giuseppe del camper? Nel camper l'hanno piazzata parafango lato guida. E che antenna ha messo? Lunga? Quella che aveva nella cosa, nella multipla. Cos'è? La PDC-800? E quella va bene, va bene. E va in lontananza. Aspetta, io sicura che da Vandoria parlo con... Maria. E allora va bene, dai, bene, dai. Fa massa bene, perché il camper ha sempre questo problema della massa. Insomma, c'è un lumare, infatti non conviene metterne perché massa non c'è. Vabbè, sul parafango è fatto in lamiera, quindi si fa bene, va bene. Quello che c'ha però, oppure gli si fa una piastra in acciaio, si mette sul parafango e si fa andare così, così. Ma se va bene così, perché solitamente ho sempre sentito dire non mi fa massa, non riesco a trovare un punto come si deve, eccetera eccetera, invece te l'ho trovato, andava. E niente, lo usi normale, senza lineare, senza luce. No, lineare in camper no. E da lì dal mare poi ti puoi fare anche di ex, va bene. E sai quante volte, anche scendendo a Olbia, avendo fretta con camionisti, sei sempre in contatto. Va bene, anche se i camionisti adesso stanno eliminando un po' tutti la 27, stanno usando questo CB Talk, specialmente in continente usano questo CB Talk. Ce l'avevo anch'io, ma io l'ho disinstallato. Io ce l'ho, ma c'è gente che non sta di scherzi. Ho detto scherzando l'altro giorno, c'è qualcuno in questo canide? Ma scherzando. Questo si è girato, ha detto di imparare a parlare bene, che ero maleducato. Ma vaffanculo. Passavamo da una fanculo in diretta. Ce n'è tanta di gente con la pista formata. Ma vabbè. Già ne riprende. Eia. Vabbè, e comunque ritornando al discorso di prima, come si dice? L'Intec FM500S è bella come radio, dai, perché non provare a riattivarla, dai? Sì, poi c'è questa prerogativa, prendi un fazzoletto, forzi la manopola dei canali, c'è una linguetta che serve per bloccare i canali, quella linguetta si spacca e ti dà un bel canale. Eia, addirittura si trova, su internet si trova anche lo schema elettrico, cioè vedi, problemi ci sono. Sì, ma infatti ci possono fare i punti, si può modificare in qualsiasi maniera quella radio. Doppio RU. Avanti! Allora, all'epoca l'FM500S è stato il primo nostro apparecchio omologato inserito in concessione. Anno di grazia 1980... No, sbagliato, il secondo è stato, i primi erano dei portatili CTE Alan 33. Il secondo apparato in concessione è l'FM500S, però, detto tra noi, vabbè. Già lo sai, no, come penso su quegli omologati. c'era invece una modifica ponticellando, potevi ottenere i canali dal 30 al 39 e invece mettendo la manopola dei canali tra l'1 e il 2 riuscivi a agganciare il 40. Sì, è vero. Tutti i trucchetti. No, per il resto roba di splatter, mamma mia, quando lo mettevi con l'antenna, quando lo mettevi in casa, roba di battimento da quelli vicini, un incubo. Io lo avevo fisso in macchina, andava benissimo, splatter non ne prendeva. In macchina va bene, in casa no, magari, ma in macchina va benissimo, non mi dava nessun problema, poi io facevo strada lunga, quindi andavo a Porto Torres, per cui me l'hanno rubato, dall'Otti 50 me l'hanno rubato, me l'hanno spaccato il vetro e me l'hanno rubato. Sì, che poi già, se vai a vedere, il danno più grosso era il vetro più che la radio rubata. Per carità, e li rubavano all'epoca, altro che autoradio, baracchini, adesso se lo lasci anche poggiato sul cofano, di notte non te ne tocca nessuno, fa schifo a tutti il baracchino, tranne qualche tossico che ci vuole fare due soldi. Va bene, vai l'altro Gianni. Ehi, ehi, e vabbè, dai, abbiamo visto che esistono le foto, anche lo schema elettrico, quindi addirittura su un mercatino completo di microfono con un altro microfono ausiliario viene venduto a 140 euro. Quanto? 140 euro, c'è su qua su un mercatino qua, online, dai. Posso? Vai, vai. Gianni, doppio run ce lo ricorderà, io ho avuto anche il 548 SX, praticamente era uguale di forma, color grigio guardia di finanza, con la modifica di serie ti davano proprio la scheda aggiuntiva dalla Intec e il selettore da mettere sulla scocca che era predisposta per la levetta dei canali, quindi modifica 120 canali, poi il resto tutto originale, microfono originale, staffa originale, cavetto di alimentazione originale, l'avevo venduto poco tempo fa 50 euro, tanto non vale di più, chi lo vende a di più vuol dire che ne vuole approfittare. Perfettamente d'accordo. Sì, ma guarda, funzionava benissimo, in AM, in FM, era solo che non lo usavo, non ne uso più di quelli là. È venuta una persona interessata, 50 euro, era contento come una Pasqua. Guarda che ho visto, Giuseppe, ho visto prezzi allucinanti su internet, gente che vendeva cacca come se fosse oro. Ehi, papà, entra sul mercatino campionisti, gente che si vuole fare del baracchino e vedi prezzi allucinanti. Ma poi vabbè, capisco un amatore che possa volerlo, ma a certi prezzi, mamma li turchi, anche perché adesso è in euro, se vuoi fare l'equivalenza in lire è il doppio, cioè 140 euro sono quasi 280.000 lire all'anima. Vabbè, riprendete voi adesso, dai, seconda infornata di Gozzoviglia, vai Natalino. No, riprendo io, non riprende Natalino. Giuseppe, io ho un amico che ha la passione della roba antica e ieri è andato a Cagliari al mercatino, dice che sembra Porta Portese, Baracchi dice che ce n'è Abizeffa, stazioni base, baracchini per la macchina, lineari, strumenti, di tutto e di più. Ha detto che ha trovato un temporizzatore per lo sviluppo delle fotografie, siccome lui sviluppa fotografie ancora bianco e nero e colori, e ce ne siamo comprato questo temporizzatore che su internet costa 140 euro, sai quanto l'ha riuscito a pagarlo? Ha fatto finta di non sapere cos'era, ha detto scusi ma che cos'è questo? Ha detto guarda io lo vendo ma non so cos'è, lo vendo, quanto lo vende? 5 euro, no 5 euro è troppo, gli ho detto, ne ha dato 4 euro, costa 140 euro su internet. Quindi bisogna avere le dritte di questi mercatini perché sono interessanti. Ma lui è appassionato di fotografia, ha comprato certe Mamiya di quelle a Pozzetto, ha comprato un sacco di roba, tra cui ha comprato anche un apparato radio che però mi ha detto che mi deve portare da vedere perché non capisce dice su che frequenza va, dice che è bellissimo, un portatile ma bello, dice con strumenti, con cosa, secondo cosa è lo trafugo. Ecco, fatti dire anche dove lo fanno questo mercatino. Lo fanno l'ultimo giorno del mese a Cagliari, ieri era, domenica era la fine del mese mi pare, come Sassari penso che sia, c'erano tutti, c'erano dischi, c'erano qua, metto motori di Vespa, di fari di macchina, di tutto e di più, ecco, sembrava Porto Portese sardo. E lui va e acquista, capito? Lui è molto appassionato di queste cose. C'è un tipo a Sassari, mi ha fatto vedere le fotografie, un signore anziano che ha anche l'Alzheimer, poveraccio. Ha la casa che sembra un museo, c'ha tutta di questa roba qua, ma tenuta di, proprio maniacalmente, tutta bene, radio antiche, macchine fotografiche, vetrine tutte piene di chiavi particolari, di tutto e di più. Ha detto che stazioni base ce n'erano, quanto ne volevi, che erano tutte accatastate una sull'altra, che ce n'erano quante ne volevi. Ha detto quello bisogna vedere però se funziona, dice già, quando tu le paghi 20 euro, anche se non funziona, non ti ripiti i bappizi, cosa ti nafutti, però se ti vanno bene hai fatto l'affare. Come ha fatto lui, ha fatto finta di non conoscerlo, quel pezzo invece lo sapeva quanto costava e sapeva anche cosa era. È un temporizzatore che ti dice quando è finito lo sviluppo della fotografia, capito? Ed è illuminato, si mette nella camera oscura e lui c'ha ancora la passione delle macchine antiche, capito? Carta da, c'è tutto quanto, carta da sviluppo, tutto quanto, in casa c'è la camera oscura. Avanti Marco, riprendi. Io la murga sul fuoco. E mio zio, lo stesso da giovane, aveva preso questo hobby del bianco nero, all'epoca poi vabbè, non esistevano le digitali, il colore costava ancora troppo, c'era tutto ingranitori, sviluppo, coso, acidi, e poi si è bevuto tutto, che te devo dire. Riprendi, lo profeta. Eia, guarda, ne ho trovato un altro, uno su Kijiji, o come ti cazzo si chiama, sono 100 euro. C'è Nicola? Nicola, vai. Eia. No, io prima cavoli con le olive, poi un hamburger con salsa rosa, formaggio, non so cos'altro, adesso un altro a seguire, perché sai, io sono deperito, devo crescere. No, naturalmente scherzo, deperito, c'ho una pancetta, direi che siamo al sesto mese di gravidanza, dovrei mettere giù peso, ma non credo sia fattibile. Dai, riprendete voi, se no mi si brucia. Ti ascolto meglio, dai, così ti ascolto molto meglio di radio. E tu mettici, cos'hai, attacco a banana, ci metti i colori e non inverti, così. Basta che me ne metti uno nero, uno rosso, e non riesci, e non inverti mai. Devi stare molto attento su quello. Vai molto meglio, sì, la radio è molto più chiara, più forte. Ogni tanto cade qualcuno. Eia, è risolto, insomma, dai. Eia. Mi sto presentando un po'. Ma Natalino è andato via? No, chi altri c'è? Sono qui. Parla, non fumare, parla. Chi è che sta fumando? Io sto mangiando di quei bombolotti che mi ha dato mia moglie, non è che mi dice che sta cucinando. Cioccolato, vedo. Pestale. A me me l'ha dato mia moglie e non ho potuto rifiutare. E infatti, quando uno è così, è meglio che si sia nessuno, diciamo così. Scusate, entro una tirata a Battesa, volevo chiedere una curiosità a Nicola, penso che... Ma Nicola, mi confermi che tu quell'apparato... c'hai un apparato, quello Intec, confermi che l'FM500S? No, vabbè, non è così importante, poco fa stavamo parlando con Doppio Room più o meno mi diceva che probabilmente era questo. Adesso stavo guardando delle immagini qua su internet, ho visto anche in qualche mercatino che lo vendono, quindi no, semplice curiosità, niente di che. È il KK infatti, con un antennino al balcone e un microfono, e si fanno un paio di prove. Certo, certo, poi per carità, adesso al di là di tutto, poi giustamente ognuno fa quello che meglio ritiene opportuno. No, vabbè, ti ripeto, così a livello di curiosità, niente di che, ho visto le fotografie ed è una bella radio, dai. Guarda, dalle foto che ho trovato qua su Google, chiaramente la radio è ripresa sul frontale, non si vede il retro, quindi questo non te lo so dire. Ma comunque è un apparecchio abbastanza conosciuto, quindi per un connettore penso che non ci siano problemi. Sì, credo di sì, credo di sì. Magari questo ce lo può confermare Marco, se ancora l'ascolto. Ci sei, Marco? Vediamo. Quattro poli, naturalmente la piedinatura del microfono deve essere giusta. Guarda che su internet si dovrebbe trovare tutto, anche la piedinatura del mic. Ehi Marco, ma mi confermi che dovrebbe essere quella standard, cioè tipo Midland? Sì, quattro poli, guarda, FM500S, forse ne ho uno disperso in casa, se non ho dato pure quello dovrei averlo in casa, ma forse ho dato anche quello. Figurati. Va bene, ragazzi, io prendo la palla al balzo e niente, dai, vi saluto, QRT per me, saluto tutta la ruota in generale, grazie della chiacchierata, dai, ci aggiorniamo quanto prima. Buona serata a tutti e niente, dai, alla prossima. Ciao Gianni, buona serata, buon tutto, alle prossime. Ciao Gianni, buon proseguo, alle prossime. Anche Nicola sta andando via, ciao Nicola, avanti Marco. Ciao Gianni, ciao Nicola. Ciao Nicola, e beh, già ritornato. Sono andato in bagno, poi mi devo fare la farina e mi sono fatto anche l'iniezione. E tu mandigato, attici. Io sto continuando. Sei tipo ruminante, no? Continui piano piano, ma continui. Sei Mazzinelli, brutto. Eia. Oia. Da, se prendete voi ancora. Cavaga. Natalino è di poche parole, è l'uomo che non deve chiedere mai. No, io sto per mangiare, è per quello che stavo bisticciando con mia voce. Ecco perché non riprendevo. Lui è bisticciando, per modo di dire. Oh, yeah. Mi che finisci come quello del quadro, mi, di cui non ricordo il titolo adesso. Mamma mia, che quadro. Ti risiegalo un goddo, mi. Come quello del quadro, che quadro? C'è un quadro che è stato fatto da vari pittori, poi è stato fatto moderno, dove c'è una donna accompagnata da un'anziana che taglia il collo a un uomo, taglia la testa a un uomo con una specie di spadino o coltellaccio. È un nome particolare che non ricordo, il decapitato, capito? E la vecchia c'ha un sacco per mettere la testa dentro e farla sparire. Allora. Tipo Dario Argeni, Argeni. Adesso pretendeva che gli odiassi la serrata qua. Non ho capito. Cosa voleva che gli ordinassi? Mettevo l'olio nella serratura perché dice che è dura. Tu mani di un po', stava una giugana. Ma stai giù. Ma infatti c'è una cosa che si può fare anche domani. Per forza di cose voleva farglielo adesso. Ma sta dando giù vicari. Le donne devi massaggiare un capo quando vogliono una cosa, fanno sempre così, sempre così. Se vogliono ottenere una cosa, id e basta. E chi sarai? No, non l'ho sentita Natalia, ho sentito che stava bisbigliando ma non ho capito cosa ha detto. Perché in cucina che sta preparando? Mi ha bestemmiato sicuramente. Cosa hai beduzzo di chi si chiamava? Le prime le vanno, cosa hai beduzzo? prerogativa di rompere le palle agli uomini. Poi cura a noi che siamo nati poveri. Questo che siamo anche pessimi, è stato l'uomo che è stato offesso. Allora parimi, ti faccio, a prova come si accuvi io. No, lo fa la tarina, poi ti fa la carina. E te sarà, chi l'ha mangiata la mela, un festo a cui. Erano segati che ti curava con. Passa via, passa via! Tucca! Tucca! Via! Questa concetta, sempre facendo la monella, stanella! Faccio la meta quando mi compro un manganello di quelli di ferro e vi ricordo dopo un chilata di fase. Qui puoi parlare un poco, ti ricava la voce, Natalino! Taglio la lingua, di taglio! La lingua di forcuta! Via, via! Che mondo è bello perché è vario. Litigare lo pure. Mia madre è sempre gente la ministra. L'amore non è bello se non è litigarello. Infatti, però a me litigare non è mi piace assai. Da dire che sono arrabbiato, non più ragione. A prova come era cura un muro da oggi. Oh, yeah. Chi è rimasto? Marco, Condor, ci sei. Vi ho mandato la foto, Il quadro è Giuditta e Oloferne di Caravaggio, ma l'hanno fatto molti altri pittori. E così finisce Natalino, mi vedrai. Natalino, guarda WhatsApp. Tu Marco, Barabazzi, quel Marco Condor. Cazzarola, ti sta dando lo spunto Natalino, non hai compreso? Dice, guarda come si fa. Marco Condor, così si fa. No, ho finito di mangiare ancora, dai, sto andando a piccole razze. Sto centellinando, come si vuol dire. Tu sei come un tiraiacca. Si va a razze a mangiare dal piatto. Kappa. Piano piano ma si mangia tutto. Io invece ne avevo uno che era affamato, al ciso, ce ne avevamo uno che avevamo trovato piccolino e l'abbiamo allevato noi, ma si mangiava una di quelle scatole grandi di bocconcini, ce le prese, te la metteva in terra e 2 secondi non veniva più. Quello quando l'ho dato a Ginevra, casa, quello lì, passa la puzza magnastica. Ehi, a questo qua cazzo sembrava che avesse verme solitario Natali, ci veniva appresso come i cani, quando vedeva Agostino, si andava appresso perché Agostino glielo prendeva dove lavorava lui, la roba da mangiare, si andava appresso, gli apriva la scatola, si mangiava tutto sino dall'ultimo pezzettino. Anche Ginevra, lui via via mi dica questi, perché lei mangiava sempre queste crocchette, mangiava. La volta era già messo la cattoretta se ne ha l'invito pure di un cazzo, dottor Rudastro. Ehi gatti, io a Tyson, ma cosa, a Titi ti davo gourmet gold, non mangiava altro, se ne davi quelle la presa non ne mangiavi. Poi dici che l'animale non comprendi, no? Se non è buono non ne mangia, mi piace la roba già unita all'animale. E sai cosa faceva quando non gli piaceva? Si girava e con la zappa la scartava. Cazzo, faria che ti desiderano il fuglio, capito? Allora, se non era saponita, come... Perché loro deve essere... Quando non è saponita come piace a loro, e la scartano la roba. Curto, per esempio, di crocchette non l'ha mai mangiato, perché ha conosciuto la roba che mangiamo noi, e lui vuole quella che mangio io, proprio. La roba. Se io gli do questa roba, la scarpa non ne mangia. No, te sono abituato a mangiare la cosa che vi faccio io, nella cucina apposta a lui. Mangia sempre quello lì. E non ne lascia manco, ti lucida la tazza. Quando sta bene il cane mangia di me. Io sì, rimane. Sembra ben partito, anche sul divano è saltato quando è venuto a pigliarmi l'ascensore. Alzheimer li vede, si pone a brincare tutti i passi, in cura una parte all'altra, quando è contento fa così. Infatti, vedi tu, perché perché io lo accarezzo, lo volto, è logico che il cane si affeziona e ti fa le feste quando vi, quando ti vede. Cazzo, se poi stati zampi, me ne brincati in alto, se, se ha messo, si è messo sul divano, sempre andando in forenza. Ma a me mi dà l'impressione che tu nel tuo consenso stai sul chivalà, che hai un po' di paura, magari di morsi, che... o forse è un'impressione mia, non lo so. No, non ho mai visto che gioco, sai. Sì, ma non... a volte non ti allontani un po', perché ho pensato forse c'ha paura Natalino, perché sa che morsica, ma non lo fa con tutti, a te ti riconosce subito, a te, a Marco riconosci, gli amici miei, poi basta che per fargli vedere che un amico lo accarezzo e lui gli fa le feste, se vede che una cosa è strana allora sta sul chi va là. Mi ne brinca in alto, viene a pigliarmi l'ascensore. Sì, anche a Marco, tutti e due, se lo so, sì. A Marco, per Marco impazzisce, perché Marco lo giunga, le fasi, dice, quante fai tu, quante fai tu, lui si mette il numero di giugiole, si fa. È bravo quel cane, no? Magari è diffidente con quelli che non conosce e sta sul chivalà. È così il carattere suo, c'è scritto anche su internet. Se volete un cane che sia affettuoso, non prendete uno Sharpie, affettuoso solo con la gente che conosce, ma con gli altri sta sul chi va là. Se non si fidano, deve essere diffidente. Dimmi, conce. Un cane corso mi è stato addosso. A te? No, a Concetta. Ma era un cucciolone. No, cani manno di sigida. Perché cane in corso, è un morso lo stesso, ha un carattere un po'. E vanno a pelle con la gente, non hai capito? Loro vanno a pelle, loro sentono l'odore di una persona che gli può fare del male e quella che gli vuole bene. Tyson è così, una volta se avete raduno tutto gatto tatuato, ma con la faccia da duce lo va via, non perché era tatuato, ma aveva una faccia un bestiale, e tanto è bello, dove sono un gatto, fammi da duce, e Tyson, cazzo, ma io la sembra, quello ti so cuore di nuda, no, cazzo di diavolo, vado a dalla tua casa, non lo toccare, cazzo, si stava mettendo addosso. Ha fatto vedere prima le denti, dopo le brincando, meno male che l'ho tirato di colpo io. Avrebbe morsicato, eh? Ah no, non si pone di guanti, no, musica. Se una persona insiste, uno gli fa vedere i denti prima, dopo gli brinca il naviche. È diffidente, quel cane. Se non ti conosci, è chi dà la canzone. Beh, tutta la sera che è vicino a me, non si è mosso di un millimetro, tutta la sera a fianco a me. Poverino, ti sei mancato quando il tuo cane era stato disinfidato, quando sei stato disinfidato. Mi sa che è arrivato Marco. Io Zarro, dai. Dove va a passare Marco Luvuli. Adesso ha suonato, me ne sta andando, là. Ci sentiamo alle prossimine. Ciao Marco Condor, ciao a tutti gli amici in ascolto. Anche io prendo la palla al balzo, mi saluto tutti perché sto cenando, là. Sentiamo alle prossime. Buon appetito per Natalino e buona serata per Gianni. Ciao a tutti, ciao.